qualcuno ci dice ci cambiò. Ora! Buona starter, mio hermano! Cappa! Poi pranzo! E allora? Campagna c'è sempre! Prova a vedere come arrivi adesso! Santiago 3 e mezzo, Radio Strida! E a me come mi stai ascoltando? Sono col microfono normale! Ma il checco c'è! Cabagara! Questo è Galaxy Santomeco col checco e col checco Smith. Stavo facendo un po' di extra con l'interno, lei che mi ha invitato un pezzo. Ah, va bene, già va bene, io mi sento, va. Non sentirai a tutti, ma che tanto la frega. Poi basta che te ne costruisci una tipo la Game Master e te la fai con la canna da pesca, e lì si schiaro un po'. E io me l'ho comprata la Game Master, me l'ho comprata, va benissimo. La tua radio, prova a parlare. E diciamo tantino, va. Prova. Sempre lo stesso. No, negativo. Perché? Cosa c'è? Elettro. Ah, 68, ho capito. E mi radiace bene. Segnale un po' basso. Tu metti un dipolo, tu puoi mettere qualsiasi cosa. Non l'albero all'altro, ti fa il dipolo. E sì, era un video. Sì, ma non è questa nera, gliela dico, non mi dice più. Ma questa nera in macchina ce l'avevi. Non è più messo in macchina. Ma li devi fare un bel pelo riflettente, tipo una piastra in alluminio. Ah, puoi fare anche così. Ma ci sono qua, io. Adesso c'è quattro. Appena appena. Si è dato da 3.5 a 4 adesso. Mezzo punto d'acqua. Mezzo punto esso. Ce l'hai a portata di mano e prova, la lascio qua intanto, già non c'è problema. Sto facendo caricare un po' l'apparato perché mi ha dato problemi, non usciva. Sicuramente qualche condensatore si è scaricato. E beh, brava, fatta via! Prendi, fatta, giù. Le ho radio già, ne ho quattro partite. sì. Stavo a vedere che era qualche condensatore che c'era messo in filtro. È andato in filtro perché non lo stavo usando per parecchio tempo e se ne è sceso. Ma può essere anche quello, è a buia. Può essere anche quello che si dove, Antonio? L'ho provato. Sto provando a lineare, sta dando 70, quasi 70 watt modulati, e invece qui nella cabina mi sta dando 3, là, c'è qualcosa che non ho regolato bene. Guarda bene il passaggio che fa. E la radio mia come si sente? Così è, con l'eco, se la posso far sentire anche senza l'eco. Guarda, adesso dovrebbe essere giusto, era in FM. Adesso sì, adesso dovete ascoltare anche a me. Prova. Prova. Aspetta qua, devo spegnere il telefono se non è capito nulla. Vedi un po' già. Ehi, io già stai uscendo, lo sai cos'era il problema? Che stavo togliendo l'eco, invece ho toccato 10 kHz. Ti volevo dire una cosa, allora, qui presente tre cose, in una stazione che c'hai, il TV131, un apparato, la cabina per le stazionarie, com'è il procedimento di collegamento per collegare tutte e tre insieme? Buongiorno, avanti, l'isola della Sardegna che ti supercordializza, Italia, Nord e Sardegna. Attento collega, tua city. Aspetta Antonio. No. Dimmi già. Cosa mi stavi chiedendo? Bisogna fare il collegamento tra lineare di TV131, un apparato radio e la capinille di quello per fare l'antenna. Quali sono i passaggi di collegamenti? Allora, l'antenna va a rosmetro. Ascoltando mi stai. Poi l'altro cavo va al linearetto e dal linearetto un altro cavo va al baracchino. Ecco, dunque questa antenna rosmetro di 231 e quella parata, ok? Io ci sono! Allora, Antone, prova, io 1, 2, 3, prova. Mi sono spaventato, e come può fare un FM? Mi sono dimenticato di girare un AM. Stavo già spaventato. Mi sono andato anche a me, non ti sentivo più. Ma questo che sta chiamando? A me sta chiamando. Antone, questo che sta chiamando? A me sta chiamando. Aspetta. Ok. No, avevo sbagliato il collegamento, se già va bene. Se manca le maestre. Ma là ci siamo. Kappa, meglio così, dai. Non avevo dovuto. Antonè, come sta arrivato nel tuo QTH adesso con questo apparato per vedere se era diverso dal bagno? No, come quinto, come segnale con modulazione, perché ho fatto diverso impianto adesso. Chiedevamo Santiago Stelli che mi presenta la zona e la radio è quella 5 perfetta. Che tipica linea di più lungo, la tua è già, c'è poco da girare, la tua è qui. E questa qua è col microfono normale, sempre del Galaxy, che ce l'aveva ancora in cerofanato, non era mai stato usato. Ecco, è la Puglia. Perfetto, guarda, la porta perfetta già. Capo. Poi anche nel Cora ho attaccato un microfono normale e mi hanno detto che esce bene col microfono normale. Tutti mi dicevano che era tanto qua, che era qua, che era là. E invece stamattina mi hanno detto che sto uscendo bene. Forse perché era basso il mic, non lo so. Adesso l'ho alzato e dice che sta uscendo bene. Prova, Antone. Ma tu vuoi passare, io per chiamarlo te, dove è preso, dove è preso, ma così sono collegato già. Tu sei Santiago Nove qua, Antone. Sì, adesso sei in 3. E 5 di prima. Ma quanti batti c'hai? E invece nell'altro passaggio dove si rompe, quanto ci avevi? Ora, così sono. Tu mi stai segnando una 40, 50 batti modulati. E allora forse ti prendo meglio io, dai. Ma strano, aspetta un attimo, devo commentare il povero, vedete. Che passo, guarda adesso, quanto sta arrivando, Antonio. Sempre lo stesso, guarda, io sono venuto per presente la zona, tanto la rossetta, la radio, tutta perfetta, super 5. Vabbè. C'è stato qualcuno che fischiava avanti che ha mangiato scagliola. Capa. Sì, ma con 140 k. Perché solitamente con 100 watt con l'altra antenna mi dava 1,4 con 100 watt, con questa 1,1. Guarda, no, è così, ho messo un errore, ho messo 100 watt, ma comunque 100 si girava andando già, conto che l'ho fatto con 2 watt e poca roba, e mi sta dando 50 con il fischio, dai, ma niente di più. Un attimino che sei riuscito a prendere una con mal di testa, quando dormo che sei arrivato mal di testa, c'è una fastidia che arrivo, mi prendo un moment. E io vai, tanto non c'è problema. Chi è? No, ma che è fischioso. No, c'è qualcuno che sta aspettando. Pronto? Attenzione, canale 10, 27075, c'è qualcuno? Qualcuno che vuole entrare in questa frequenzina? Sì, Antone, ci sono. Hai preso la pastiglia? Sì, ma non ne approfittare. Che io, quando avevo i dolori alla gamba, non potevo manco dormire la notte, prendevo antidolorifici, che sempre a bruciore di stomaco. E mi prendevo anche il cardioprotettorio. Adesso ogni minima cosa non la digerisco, prima digerivo anche la pietra. Ah, e stanno dicendo che sta diminuendo la cosa, piano piano, almeno qua, ma il continente no, è sempre grave la situazione, specialmente Milano, con la zona lì, stanno le temperature in Italia. Ma sembra che la cosa stia andando bene, speriamo. Tu non ci credi, ma hanno chiesto la grazia alla Madonna di San Pietro, la Madonna delle Grazie, e hanno fatto la messa qua. Quella lì era la Madonna che scendo giù nel cortile, non sto a contatto con nessuno, scendo giù, mi mettiamo sotto la macchina, tanto per farla andare un po', perché è più di un mese e mezzo ferma la macchina. Io lunedì devo andare all'ospedale, me la gioco di me. Sì, è quello lì che ce l'ho già, ho fatto anche il foglio, perché non sia che termino l'ambulanza, che magari vogliono io, almeno ce l'ho. Da casa fino all'ospedale e poi viceversa. Lo so, ma non ti puoi accoppiare, il fatto è quello, Antonio. Col coronavirus eviterei di stare. Aspetta, Antonio, che stanno chiamando, avanti chi chiama già. Prova, Fran. E ha voglia che arrivi più forte, di brutto. Da 3 arrivi a 5. E anche la radio per più forte. Sì, va bene, sono in compagnia di Antonio Luiosi, non so se ti ascolto. Lo ascolti? Franco, mi anche a oggi si è arrivato, dai, vai. Antonio, ti saluta. Aspettate un attimino, fate bianco. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, Italia fa chiamata, cambio. Buongiorno a te, anzi buonasera. E l'operatore Gianni Doppio Q della città di Sassari che ti super cordializza. Da dove stai modulando? Tua City. Attenzione amico, ascolti l'isola della Sardegna, città di Sassari, è sparito. L'avete sentito? E l'ho ritorno. Aspetta. Attenzione canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, Brincova. Aspettate un secondo che c'è uno che sta chiamando. Attenzione chi chiama Italy, qual è la tua city? Francia? Attenzione un amico qui della Sardegna. Se non avete compiuto show, non è più capito, vi prendete, buonasera a tutti quelli che sono entrati, non so chi ci sia perché siete entrati in tre. Avanti Natalino. Che ha sistemato, no, era Franco California. Franco California, se mi ascolti, lo ascoltavo. Signore, era molto alto, però ascoltavo, forte e chiaro. Se questo ti ha parlato sopra, Antonio, così ti complica. Ti dico, della Francia? Ma non lo so se è Francia, non penso che sia Francia. Attento collega, l'isola della Sardegna, città di Sassari, chiama. Attenzione si compresce tutti la Sardegna, mon ami. A voi pure show. Per me non è francese. Attenzione mon ami. Je t'écoute très bien mon ami. Quel è ton prénom? Mon prénom è Jean Delta Romeo della ville de Sassari. Qual è la tua ville? Qual è la tua città, la tua ville? Marrano, forse sta parlando un po' di francese, ma non è francese. Attenzione, mon ami. Mi puoi darci il segnale del frequenze? Radio e Santiago. Quindi avanti Antonio. Ma è già. Niente francese, basta in nave, c'è la V e così lo capiscono. Bonsoir tout le monde! Bonsoir, come va lì il coronavirus? Come ça va coronavirus? Vai, io mi mando anche chi sa. Sembra che lui non abbia toccato, per la regola tranquilla, bisogna vedere se è chiuso in casa. Cavagava. No, Franco, riprendi, là. Franco, è morto. Antonio, riprendi. siano meno disturbate, no? Cioè, per esempio meno QRM, cioè, rimane molto più pulita la frequenza. Sì, Antonio, da quando ho piantato questa antenna QRM ce n'è quasi zero, non è scelto quasi nulla, proprio sarà anche la zona mia, non lo so, forse è perché non ci sono anche macchine in giro, capito, molto, e non sento molto, proprio basso, basso. Sì, è vero, niente disturbi atmosferici che per la radio ne tirava fuori, sì, è vero, ha ogni differenza. Questo ricevermi l'inquinamento si sta riprendendo pure l'atmosfera adesso, gli animali stanno uscendo in giro perché si ritrovano praticamente il silenzio, non c'è, non ci sono persone, non ci sono macchine che girano, anche se stavano girando i cinghiali in piazza d'Italia l'altro giorno. Quello che è vero, aspetta che... Così è vero, un po' di libertà, un po' di silenzio. Cazzo, quanto vorrei che tu finissi subito questa galera, guarda, veramente. E a chi lo dici? Io ti ho chiamato, Frasi, tu che sei sempre assente. Fai la brava, che non puoi avvicinarti, che devi tenere distanza. Ma questa non è un ecco-colto, vero? Non è un ecco-colto questo che c'hai. Quest'ecco che hai non è l'ecco colto. Comunque già va bene. Antone, riprendi. Vediamo se mi ascolta a me, California. È perfetto. Buongiorno e ben sentito. Sono con l'aiutino, sono mi tiri fuori. Dove pretrova o ne pretrova. Perfetto, anche tu bello forte e chiaro, con chi si utilizza la radio. Anche se ogni tanto questo QRM copre un pochettino, poi va e viene, ma niente di più. La frequenza un po' sporca, ma fa piacere questi rumori. Diciamo che siamo solo noi. Mi sa di no. C'è gente a banda laterale che sta rompendo. Sempre in banda laterale, mi sentivo di fare di ex, si sentono in banda laterale. Mi espulsare, vediamo un po' chi c'è. Su 10 vai. Su 10, un CD. Prova a vedere, perché mi sento da qua. Bisogna guardare in altre bande, no, no, che sono molto lontanata. Ho fatto anche io a chiarificarmi bene. Devono essere probabilmente in altre bande. C'è banda laterale, sì. Ma chissà dove. Tu non sai quanto sono contento, Antonio. Perché già? Perché sta funzionando questo animale. I collettori, se non perdono acido, già si ricarica. No, già c'è forse uno che te ne aiuta, deve rompere bene. Ti farò sapere, dai. Franco, Natalino ci sei? Mi sembra che ho entrato poco fa Natalino, poi scompa. Poi Antonio, a lavorare ancora fai? Mezzo gaia. La barra mobile è sempre quella, c'è Antonio. Chiuso una porta sempre un portone, Antonio. Mia moto è male per dicendo nei conquisti. Lo so, io lo sento. Antonio, staccato hai? Si sente più Franco adesso, ma è staccato. Staccato, sì. Bello. E dopo la vecchia, bla bla. Come ti ho detto io, mi è fatto bene. Non sarebbe manco il primo che l'ha fatto. E mi pare che l'ha fatto anche Benito. Chi l'aveva fatto? Qualche un altro l'ha fatto. A metterla sull'altra. Vai Antone, tranquillo. Capito? Prova. È aumentato. Diciamo che prima eri su 3, adesso sei su 4,5. Aumentato, se tu gli metti un palo lungo lì, vedrai che va bene. Allora non ti sarà piccato all'albero, l'hai messa da giù? Prova a piccarti sull'albero, metterla in punta, vedi? No. Oramai la tua età non fa più a piccare all'albero. lì, ti sbatti la scheda, ti fai male davvero. Se non è che c'è una scala, se non è che c'è una scala, perfetto. Una cosa è un amico, si stava arrampicando per prendere i fichi d'India, cazzo, le si gira la scala. Tutto pieno di spine, cazzo, cazzo, sei tanto la mia amica di... Ha sognato l'intento di spine da testa, tutte le blocche, tutto pieno. Mi si è girata, mi si è troncata la fuggia, spaccata, cos'è come se lo piante grasse si spacca. E lì si è girata la scala, è caduto proprio sopra la droncata bianca, immaginate tu il dolore. Attarino entra molto spesso adesso, sta entrando, dai, ogni tanto fa il cucù e poi se ne va. Qua è sopra che ha parato la scala. Sì, ma a casa cosa c'hai? Nulla. Ma non c'avevi quelli che ti ha dato l'antarino? Quello lì l'hanno finito. Quello è uno dei primi alimentatori che ho avuto io. Avevo fatto delle modifiche, gli avevo messo le luci perché non ne aveva, degli strumenti, e in più gli avevo verniciato il coperchio perché era bianco, non mi piace, avrei fatto su. Ma ha fatto bene. Va benissimo, non scende nulla, tu li vai attaccati su che ti piace, non fa, 10 ampere c'hai, 10 ampere ti dà. E questo usato il Galaxy. Ah, di colpo non uscivo di modulazione. Stamattina l'ho pulito tutto qua, l'ho acceso. Ma se fosse stato il condensatore avrebbe fatto un intento di nuovo, scaldato, acceso. Non voglio avvisare, ma forse il microfono ha modificato che stava andando qui. Che cosa? Il Galaxy? Sì. No, ce l'ha interno. Con le braccia, non è che lo faccio. Mi paghi una cazzata, c'hanno dei jumper per voi. Mi paghi non solo che sono costruiti, non sono con la cazza. Antonello, Anton, senti. Sono quelli da comprare. Io dai, io che non te lo mando un coronato. Ho messo che te ne state in campagna per evacuare. Almeno in campagna te ne finisce a casa. Ma piazza solo. Cosa c'hai? Un rimpetto e... Che la cosa? Quindi fai lui, lui. Positivo calorro, generale, la cosa è bella, ragazzi. Adesso io parlo con il di due secondi, questa piccola chiamata che ti chiamo, che è perché... Sofia! La mamma sono fra, e beh Gianni, e non andiamo che è bella. Aspetta un attimino, Antonello, sì. Antonello, era qua, che fine ha fatto? Andava, Luca, me la sei combinata? Ero dormito già. Mi ha detto, io non ho dormito più la volta. Ho seguito al tuo bazzaro, da lì sei eccitato. Non ho dormito perché mi sono messo a posto mezzo cassetto di documenti che non servivano più. Adesso mi devo fare la lamentata. Sì, adesso l'ho passato giù un po' a due io. Cioè nel cassetto faccio lì, faccio lavori, pezzi di tutto di più, se io un po' a poi nel cassetto lo stesso che ho roba di pezzi di telefono, se io un po' a di roba, un bel. Poi, guarda, ho fatto un bel po' di pulizia già, se ce n'è da buttare ancora. No, qua è roba di documentazione, per fortuna me li ho ricontrollati, ho trovato i strapparmi, perché ho ristrappi. Stavo buttando documenti dei MIPS che erano importanti, meno male che me l'ho ricontrollato. Dove sei Franco? Franco, devi aspettare un attimo. Non è al monte? No, è campagna. Non è entrato nessuno già. C'è il colore amico. Dai, cucco. Che era Tattarì? C'ho fame, però aspetta un attimo, mi alzo un attimino già. Sì, la stessa idea, mi voglio mangiare un po' di formaggio spalmabile, quello con piccante. Io volevo mettermi peperoncino, so che mi piace la pasta piccante al sugo, no, non ce n'è qua. Anzi c'era, ma era scaduto dal 2019, ce l'ho buttato. Ecco già rifatti. Oh, piante, eccaci qua. C'è la muffa! Ah, beh, se c'è la muffa la tocco, ma se no rimasti. Avanti, Altari, arrivo subito. Che bella voce che c'ha Luca, tutta sensuale. A te l'immagini già. Luca è triste perché non può uscire, lui è girellone. Sì, ma purtroppo bisogna stare in casa, bacia, punto. Da Marco a prendermi le medicine oggi, poi l'ho mandato in farmacia, dovevo prendermi la gara, quella sterile. Gli ho scritto tutto in un bigliettino, cazzo, l'ha data la farmacista, si è dimenticata di pulirmi la gara, ma poi su tutto, questa scelta gara cosa vuoi? Il medico è poi come lo incasinamento. Pure la farmacista che sta con la testa fra le nuvole, sai. E te l'ho scritto anche, ma non ha male, dipende lo fa male con i figli, cosa dice? Adesso intanto deve tornare domani a prendere il cibo che arriva dalle 7, quello che ce l'ha la mangia. E quando va a prendere quello gli faccio prendere anche le gambe. 2,50 la scala. E non ti dimenticare le garze, perché se no cazzo ti ammazzo la giudizio se non mi porti le garze. Lui ha detto che forse non ce le ha avuto, ma ti ha fatto dato il biglietto, non l'ha letto. Dice che non ce l'ha, fa l'altra farmacia vicino lì dove sei tu e gli dia. Cazzo, come fai a medicarti il piede? Calze steri. Se tu dici le mie, vai, se poi si no, che cazzo, mi si muove, non mi vuoi fare la famità. Che vuole le coccole? C'è il trumpito. Non pensi che ti basta. C'è proprio il trumpito. È proprio a calamaiata. Non mi so se sarà ancora reso. Sarà annoiato, la pizza, perché lo porto, lo faccio girare, eccetera, adesso può annoiato anche lui. Speriamo che finisca in fretta, questa storia, questa maledizione, che siamo agli arresti domiciliari senza aver fatto niente. Allora sai, a Cesare l'hanno denunciato, questo te l'avevo. No, perché? Passata una civetta in Morghese, è passata, e lui era fuori dall'altra macchina che si era piazzato le sigarette ed era in Chivino. Non me ne frega niente. No, di quello che dici tu, non me ne frega niente, poteva dire, mi stavo prendendo le sigarette, non gli facevano un cazzo. Invece lui ha fatto il prepotente, l'hanno fuori la muscia e l'hanno denunziato. E chi invece? No, polizia e Morghese. Ah, anche le patrulle dei civetti stanno mettendo. Sì, c'avevano i giubbotti polizia, scritto polizia pagandosi mi pare. Anche quelli di Morghese li stanno mandando a fare i controlli. Tu non ti avvisi e bisogno essi invece. Da oggi ci sono anche i militari in giro. Da Roma. Adesso domani devo andare a pigliarmi la pensione perché c'è da domani. Cazzo, e dove vai a prendere? Il 25 aprile vado. Prendo la macchina, vado e mi rapiglio. E se uno è senza di là può andare a pigliarli o no? E non lo so, no, non c'è nelle voci, non c'è nelle voci che... Noi fuori li abbiamo già tutti e due consumati, uno lo abbiamo fatto per il cane e uno per andare all'ospedale. Ma quante le fotocopie, amico? No, cosa fotocopie? Sono tutti chiusi, le cose vorrei fare. Già me la fa l'estate domani, amico. Sì, fatti di qua che ti servono, non si sa mai. Franco era, Franco California che era in campagna. Ehi, ma se tu ne hai dato 10, doveva fare 5 a me e 5 a lui, me ne ha dato lui. Ma lui ne serviva più di uno. Magari ha pensato che due ti bastavano. Io ho detto di me, di portarteli, di voi. Poi ha deciso lui quanto dartene. Vuol dire che gli altri li servivano. Sì, vabbè. Capito? Ah, pensiamo di portare Alessandra, non c'è problema, grazie, grazie. Almeno per lui mi sono salvato. Beh, adesso due lingue me li mangio, va. Domani sono per quelli che la prendono da cui io la prendo dal banco, ma per la pensione, non c'entro nell'ufficio, no? Perché sennò mi toccherebbe il primo mi toccherebbe. Perché è a Caglioni, capito là? Invece se la prendi da fuori c'è da domani. Si lavora, sì. Si deve entrare in ufficio a Scaglioni. Break. Registrato il break, da fuori. Da fuori la prende mamma. Poi mamma è sana. Avanti break. Buonasera a tutti, Marco. Ascoltate, per chi la pensione la prende in banca, sapete com'è la storia? Quello non lo sappiamo. Io so che la prende dal banco, ma se deve forse è domani. Poi se devi entrare negli uffici è a Scaglioni. E a me, siccome il mio cognome lo sai, mi tocca il primo. Figurati. Chissà che nelle banche hanno le armature. Sono le banche di signore, non so. Nelle banche non si sa, le poste è sicuro che è così. Sì, mi sa che vado di direttamente il primo. A questo punto vado il primo, tanto anch'io la ritiro col bancomat allo sportello, al bancomat, dai. Buonasera a tutti. No, chiedevo a livello di permessi, no. Beh, quella comunque è una situazione di necessità, perché se sei senza soldi devi ritirare. E non è a dire che uso la carta di credito, perché se chiamo il bombolaio a cambiare la bombola, lui vuole i contanti, quindi devo per forza ritirare i contanti, K. Io la carta la sto usando molto per la farmacia, per fare la spesa, e anche quando mi portano la pizza, mi vedo il banco, ma non portare il banco, ma sì, per evitare di toccare anche il resto già. Quando ti danno il resto, chissà quanta gente l'ha toccato e come l'ha toccato, se ha mani nude, se ci ha tossito sopra, se ha un dito. E adesso è tutto un'incognita. Nathalie, per la cronaca, sto usando un microfonino simile al tuo. È un microfono vile, K. Marco, questa radio ti piace? Molto, molto. Ma quello è il Saturn? Saturn Echo col microfono normale. Ciao Franco, buona serata. Sì, già, molto bella. Ieri non stavi uscendo così chiaro, non so perché. Oggi è più chiara, più proprio limpida, recoaro, capo. No, ieri proprio non stavo uscendo perché non ho detto zio Natalino di mettere il microfono normale, capito l'hai, ma colino. Io sto usando il microfono di serie con l'HR5005 Intec e forse c'è, sì, appena appena di eco c'è anche. Io mica mi sto vendendo l'MFC, cosa mi dai in cambio? Nathalie, quello mi piacerebbe molto, se avessi soldi l'avrei preso, è che non aggiudina. No, Giudina, e anche aspettando il mese prossimo i soldi pochi sono comunque, perché io il mio non l'ho più trovato. Riprendi Franco California, dai, io vado in cucina. Basso, basso, ti sento, Fra. Evidentemente non è orientata bene quell'antenna. Fai così, ti ascolto a livello QRM proprio, mi Fra. Franco, come mi copi tu? E da quelle parti. Ok. Va bene, io ho zona via del Trento, dai. Va bene. I watt non so quanti siano, presumo 10 comunque. Comunque Marco. Eia. Ti stavo dicendo, anche facendo scambio con qualche cosa. Così almeno me lo trovo. Devo dare anche il coso, come si chiama, il Presidente Lincoln e quell'altro 120 canali, proprio per togliermeli da mezzo. Quello lì ciò che serve a te e non lo do a nessuno, a te non me lo tengo. No, invece Nathalie, tu al primo che te lo compra vendilo, non lo devi bloccare per me, e poi te l'ho detto, io soldi pochi ne ho, se me ne entrano veramente pochi, quindi tu vendilo appena trovi l'acquirente. Ricorda, non ce n'è amici, quando si vende non ce ne sono amici. Vai Gianni. Luca, Lucariello, ci sei? Un attimo che mi è caduto il microfono, un attimo, riprendo io. Vabbè, ma se te l'ha promesso, giusto che te lo dia a te. Beh, no, promesso magari no, già. Io l'ho saputo adesso che lo sta dando, quindi appena trova l'acquirente che lo dia, ci mancherebbe, non glielo voglio bloccare e poi non ho i soldi, capito già. Il mio, deve essere che se l'è portato via il coronavirus, ma da tempo mi, non lo vedo da un anno e mezzo, due, è scomparso, non lo so, vabbè. Sarà tua zia che facendo pulsazione la pazza. Ehi, magari io distrattamente l'ho messo in qualche, cercando roba, l'ho messo in qualche busta con robaccia, magari lei ha visto rumenta e ci ha buttato tutto. A te le immagini, 150 euro. Oh yeah, infatti io per quello che non voglio che riesco ci metta le mani, se no non avrei chiamato la donna. Però sto facendo io piano piano. Ehi, già. come ti sembra la modulazione? Naturalmente conta che sto usando il microfono di serie di questo apparato, che è tipo quello di Natalino, è piccolo e miserabile come mic. No, è chiara Marco, la tua voce è chiara. Ma prima c'era anche Antonello Di Orsi, mi pare che l'avessi chiamato, c'era lui. Sì, era Antonello, poi ci ha sentato, l'ho richiamato tante volte e non ha risposto. Antonello, sì. È strano, è una balza testa, mi ha detto, si ha preso la pastiglia, poi è rientrata. Dimmi tutto franco. Allora, premetto, questo è uno Schmitter a LED, però bene o male. Allora, premi prima portante muta e poi modula. Vai. Allora, Santiago 7 modulato, Santiago 8, cap. Natalino, lo ascolti? Non ha ripreso Natalino. Ti volevo chiedere, Gianni, ma come mai sta entrando così poca gente? Te lo so dire. No, ma in PMR mi pare non c'è nemmeno nessuno, mi vediamo. Radioamatori, sento. PMR per ora è vuoto, non sento nulla. E anch'io non è che stia in PMR, giusto per fare prove, mi provare l'antenna, quella dell'altro giorno, poi in 27 è molto meglio, dai. E beh, come va? Va, diciamo che siccome è dalla parte opposta rispetto al ripetitore, ricevo gente che non ricevo con l'assirio, lo sai. Però l'assirio è proprio 30 metri dal ripetitore cellulare, presumo che faccia abbattimento. Me ne accorgo proprio dalla ricezione. Ma l'ho veramente sul tetto? No. L'ho messa sul telaio della serranda. Non emetto sul tetto, no. Troppi metri il capo, non arriverebbe segnale. Oh, io lo vedo come un giocato con la frequenza. Non me ne frega nulla di questi grandi regni. Andate. E questo qui comunque, l'eco come va questo eco qua? Ti piace? Sì, leggero. Anch'io dovrei avere appena di eco, ma una cosa infinitesimale, quasi inascoltabile è il mio. Cioè non lo senti proprio, o sì? No, non si sente, Hola. Eccolo, forse. Prova. 1, 2, 3, 3, 4, 5, vai. Avanti! Lupo Vigio, se sei tu, ti ascolto, non capisco cosa dici, non so dove sei. Ti passo Marco, io ti ho risolto la mano. Ciao Nicola. Otto e mezzo di segnale, dai. E Gianni quasi non ti ascolta. Da me 5. Nicola, mi senti? Che è avanti, altro? Chi ha chiamato, avanti? Vabbè, già tu c'ho la batteria scarica. Ma ha fatto la renda, se sto bene. E beh, Marco. Voglio vedere quanto durerà ancora questa lagna di stare a casa. No, perché loro sono convinti com'è il coso sicurezza fino al 31 luglio. Speriamo che venga debellato prima questo virus immaginario che c'è in giro, capito? Comunque ci stanno prendendo per il sedere alla grande luce, lascia perdere. Ma a parte mi si è pensato, soia. Purtroppo è così. Mi stanno prendendo per il culo veramente. Allora Marco, a orecchio tuo, questo qua è un microfono, 1, 2, 3, prova. Ok, memorizza, aspetta. E questo è un altro, 1, 2, 3, prova, cambio. Chi è meglio secondo te? A me sembra uguale. Si vede, a te lo dice meglio questo qua. L'altro dice rimane più amplificato, ma è tottino. Allora Marco, sei sicuro? Guarda, 1, 2, 3, questo è il diciamo là il primo. Ok, cioè lo cambio. E questo è il secondo, cambio. Attenzione Marco, se tu ascolti Luca, cambio. Può darsi che sia questa sia più metallica, ma non troppo vicini siamo. Natalino, cosa te ne sembra? Tu che hai l'orecchio magari più allenato. È più chiara l'altra. Questa qui è di quei baracchini modificati che hanno le cocolte ed è sicuro sì, di suo. Questo microfono, perché ha fatto per quei baracchini, per i camionari. Buonasera. Ciao Lubrofest, c'era anche propagazione oggi, c'era gente al 45 e anche sulla in banda laterale in alto. C'è tempo di spazio, però c'è anche Giulio, avanti, ciao Gianni, avanti Giulio. Ciao, il primo Luca, il primo. Questo qua dici allora? Il primo che è proprio qua. E questo non va bene? Sì, non è lo stesso, ma basta migliore. Gianni ha detto che migliorasse, quindi devi dare cosa. Non lo so, se lasciare questo qua o lasciare l'altro. Sì, perché voi siete vicino, Gianni è vicinissimo a te. Allora, Natalino dice che questo qua è Rauco, questo qua, secondo te è Rauco? Sì, questo qui è Rauco, certo. Il primo c'è il volante, l'ho appena cambiato. Allora, questo qua è uno, 1, 2, 3, prova, aspetta. E questo qua è l'altro, 1, 2, 3, prova. Questo è più chiaro, questo è più chiaro, ecco. Io intendo questo, per me questo è più chiaro. Ok, da prova c'è anche il PTT un po' sporco, che fa ogni tanto... è pulito. È questo il migliore, Luca, te l'ho detto anch'io. Mille voci della giudizio. I due fatto apposta ma fa la voce da camionista. Punto. Non dico più niente. Da poi se vuoi credi, è così. Credi gente pure Giulio. Vabbè, è sempre meglio che un parere a quelli più lontani anche. Allora lascio questo qua da per fare QSO. Quindi non è fatto anche l'ecco. E poi Luca, non ha niente a che fare con la tua bella modulazione, quella la solita. Questa è... sì, va bene lo stesso, però io sono abituato ad ascoltarti col punto e tutta la musica. Te l'ho detto che questa non è la modulazione sua, perché quello è un apparecchio fatto per i camionisti, non è quello che usa lui di solito per fare salotto. Questa è una radio da combattimento. Quella è la radio, ma è per, come la sento io, un carraggio a rispetto all'altra. Poi diciamo che va bene ugualmente, non è che non va bene, certo. È forte, è tutto quello che vuoi, però c'è un abisso tra la sua modulazione e quella originale. Quello c'è la... è da Marina quello, la rabbia 25 giù. Dunque c'è anche Franco, il fischio mi è sembrato tiro, avanti. Scusate, credevo che non altro canale, perché avevo quelli memorizzati, invece mi sono spostato con questo. Buonasera. Ciao Tino. Ciao Tino. Ciao a tutti, sono in Codex, devo fare qualcosa del conto, devo mandarle. Ho dovuto provare una cosa sulla radio e basta. Riprendi Giulio, ciao Giulio, ciao a tutti. Aspetta che c'è anche Franco, avanti Fra. Chi Franco, di Sorso? No, negativo, California. Io ti sento Fra. Giulio, tu lo senti a Franco? Ancora non l'ho sentito. Avanti Franco. Ciao Fra, molto basso, non si capisce quasi niente qui quello che dici. Ciao Fra. Dopo un bel po' di tempo me l'ho ascoltato, te lo dico. Ciao Franco, se mi ascolti, la propagazione si annulla, la propagazione c'ho 7-8, quindi anche segnali alti qui da Sassari faccio fatica a ascoltarli. Va bene, riprendi giù, ci sentiamo più tardi che devo mandare delle mail. Grazie, ciao. Ok, ciao, ciao a te. Alle prossime, dai. Ciao Lombrestetta, ciao Gianni, ciao Luca, ciao Marco e ciao a tutti. Avanti Marco. Ciao Giulio, tra un passaggio e l'altro me l'ho dimenticato di salutare anche. Ma doppio room c'è ancora, sì? Gianni? Magari agente. Ha detto che era un po' addolorato, non so cosa gli faceva male. Io la schiena, la colonna vertebrale, all'attacco col bacino. e lì mi si, c'ho i nervi schiacciati e mi si irradiava la gamba, quindi sono stato dormito abbastanza male. Mi sono dovuto prendere un brufen nel pomeriggio perché stava cominciando a scocciare la cosa. Scusate, ciao la Tavio, mi ero dimenticato di salutare la Tavio, ciao la Tavio, e anche a Franco, lo sento bassissimo, saluto tutti comunque, se prendi la Tavio. Ciao, giù anche io, tra un passaggio e l'altro mi ero dimenticato, mi sa. E cosa vuoi? Questi giovani, non va bene quel baracchino, per un camionista va bene, per quelli che vanno sui 45 a modulare i grandi modulatori, come ci si crede in 10 livelli, è più potente e basta, però più va a fa casino. Sì, infatti, no, ma non ha qualità, non ha qualità microfonica, allora lì, per me, e poi io... Ma è utile che uno mi chieda il parere su un baracchino di genere, perché io sono sempre stato contrario, a me non mi è mai piaciuto. Ripeto, è fortissimo quello, sì, tutto quello che vuoi, però se è per fare casino va bene, ma per modulare il cassapace per me non va bene. Io non lo apprezzo, io apprezzo altro, il frutto è meraviglioso. La radio forse più bella che c'è, una delle più belle che c'è, 27, quella di Luca, ma col frutto però. Avanti Gianni, sei rientrato? Dai Gianni, non è rientrato, vediamo se riesco a sentire meglio Franco. Franco! Tutti caduti, Gianni l'altro, ci sei? Ehi, sono qua. Buonasera a tutti di nuovo. Cazzo, mi state facendo venire mal di testa, ragazzi. Oggi sulla 27 c'è il virus del cazzo dell'eco, ragazzi, mamma mia, oh. Marco, come mai c'è questa voce da barattolo, ragazzi? Allora, sto usando il microfono di serie di questo apparato che è abbastanza schifosetto, ha di comodo che ha l'auto squelch e i pulsanti dei canali, però se io metto il DMC507 migliora molto. Se volete vi faccio la prova, tanto cambiare lo devo, perché è tipo quello di Natalino, amico come Mike, un po' simile, e quindi Natalino, lui sì che mi capisce. Natalino, vai. Già mi viene male a modulare, se vedi come sto prendendo questo microfono, è microscopico, fattissimo, tira via, ce l'ho butto. Se riesco, altro, c'ho un microfono di 4,40, c'ho in campagna, quando finisce questa maledizione provo a vedere se funziona. Natalino, mandami la fotografia su WhatsApp di quel baracchino. Mica, è attaccato nel coso, il frontale ti posso mandare. No, non ho capito Natalino, cosa hai detto? Solo il frontale ti posso mandare, perché è attaccato alla staffa qua. Non si vede la faccia di sopra. Non si vede tutto il baracchino. Però si vede la scatola, che ci deve essere nella scatola. È bellino come baracchino, mi aspetta, ti mando il frontale. Scattami la foto e mandamela, dai, così c'è curiosità. Comunque già va bene, dai, già va bene, Natalia, essendo un baracchinetto così, uno monolato così, va bene, altro che. Bene, bene, considerando tutto chiaramente, no? La posizione dove sei, eccetera. Ah, per me va bene, dai, non è che... Non c'è niente da dire. Vediamo un po'. Ci sei sempre? Io sono sempre qua. E allora qui? Che è avanti? Sempre uguale, fra. Fa il passaggio? Sì, segnale 3 cifre da me. Riprovo, perché io non lo stavo guardando con lo strumento. Riprovo, vediamo. Scusa un attimino, come metto il binocolo. Perché se no, avanti. Ma diciamo che c'è a livello del QRM, che è quasi 7 UG qua. Ok, vabbè. Se parli vicino al micro, sicuramente riesco a capire tutto quello che dici, però il radio è basso. Ora stai usando un dipolo? Ok, vabbè. Comunque mi ricordo che col dipolo che avevi, ecco, fa, ti sentivo un po' meglio, magari sei orientato da qualche altra parte. Va bene, avanti Marco. Ehi, quindi ribadisco, qua zona Viale Trento, Franco arriva a 7, modulato anche 8, dai. Allora, il profeta, vedi un po' se si è migliorato il tutto. Microfono sempre normale, però un microfono degno di essere chiamato a nome microfono. E non quella scatoletta di prima, dai. Confermo, confermo. Questo va decisamente meglio, Marco. Va molto, ma molto meglio. Tra l'altro è proprio barattolo. È proprio voce barattolosa. Ehi, me l'aspettavo, dai. Me l'aspettavo, eh. È piccolo, piccolo, però non capisco perché di serie debbano dare microfoni finché l'apparecchio è di quelli omologati micro, posso capire, però dare un mic del genere su un apparecchio del genere, boh, è un peccato. Va bene, dai, riprendete. Chi faccio girare? Luca, vai. Mi assento, arrivo subito. Giulio, arrivata a te. Adesso guardo, sai, dove l'ho messo il telefono? Ah sì, già è qua, l'ho trovato il telefono. Adesso guardo, riprendi. Sì, no problem. Come il baracchino è bello, c'ha tante funzioni. Schiacci il canale, poi schiacci un tasto e schiacci la frequenza. Ne ha un sacco di funzioni. È bellissimo. Quindi al profeta non piace l'eco. Mamma mia. Mamma mia, cazzo, bobo. Scusate, ci mettiamo un altro canale, li snocchiamo a questi con l'eco. No, scusate, Natalia ancora non è arrivato. Sembra strano. Sapete che la rete è lenta in questi giorni. Ecco qua, tutto liscio. Sì, la rete è lenta, ho notato che quando mi mandano messaggi, prima che arrivi la spunta o quando l'invio c'è un ritardo, non so perché. Sicuramente c'è tutta Italia incollata allo smartphone, non potendo uscire. Vai Giulio. Ok, guarda, sì, no, stavo parlando con mia figlia, adesso non ho sentito bene quello che hai detto. Comunque, anch'io confermo che quel microfono è ultimo, anche se è un microfono normale, è un microfono, è ultimo, mi piace veramente. Rispetto ad l'altro sì, andavo bene lo stesso, perché per chi lo apprezza, però io lo apprezzo molto di più questo. E dunque va bene così. Vabbè, dai, facciamo girare. Dopo a te, aiuto. Eia, no, cioè ogni volta l'eco mi fa venire mal di testa nei QSO, cazzo, mamma mia, e quindi, e quindi così, la girocapo, c'ho la testa, budubum, mamma mia, e sì che mi siedo. Dai Marco, tieni questo, il microfono che fa meglio, chiaramente, rispetto all'altro. Franco lo sento molto basso, non so se lui sente me. Buonasera innanzitutto, non so se ti ho salutato prima, dico, non so se mi senti, avanti. Io sono entrato. Sì, ti ascolto Fra, sei a livello del QRM, aspetta di mettere il binocolo, così ti posso dare il referto giusto. Anche tu il binocolo, tutti binocolati siamo, mi sa, però il mio è per vedere da lontano. Eia, avanti Fra, qua zona bassa, centro storico, corso Fico per intenderci, dai, qua sì, Santiago 3, Radio 3, dai, c'è molto QRM, comunque riesco ad ascoltarti, dai, bene Merida, ok, dai, avanti Marconi, dai. Eia, io vado a mangiare, signori, dai, a fare uno spuntino. Rilancio doppio run che è rientrato, vai Gianni. Eia, saluto tutti gli amici che sono entrati. Saluto anche a te, ti auguro una buona carica, dai. Io sono andato già a mangiarmi un pezzettino di pane con il formaggio più grande. Adesso sto bene, là. Quello bello cremoso spalmato. Avanti Giulio, buonasera. Ciao già, e focate, ti ho rilanciato ma tu non ci stavi rendendo, per cui va bene così, adesso stai bene, no, io l'ho fatta già più oltre 3 quarti d'ora fa, una piccola merendina, una pianatina, mezza pianata per la verità, con alcune fette di salata, per cui va bene lo stesso, ci voleva se vuoi tornare un pochino. E va Marco di Luca. Vai Marco. E io ben rimasto, un prefetto, avanti anche Franco c'è rimasto, avanti Gianni, sono un prefetto. Eia, eia. Beh, ne approfitto che mi devo assentare 5 minuti, dai. Quindi vi lascio il mic, ti lascio il mic Giulio, dai, mi assento un attimo, ci sentiamo dopo. Ok, allora slancio per Franco io, a dopo allora, Gianni, a dopo, avanti Franco. Giulio, questa parola ti piace? Sì, però non mi piace l'eco, già lo sai, io sono contrario all'eco, sì, l'apparato va bene, problemi tu non ne hai, con nessun apparato. Non mi piace l'eco che dici, ecco, anche se ne metti poco, una puntina, non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà. Però come radio avete forte, come segnale pure non ne parliamo. Per cui va bene. A me tu naturalmente sei padronissimo di usare il microfono e l'eco che vuoi, non è quello che conta, non è quello che ti dico io che conta. Però se tu mi sai che non parere io ti sto dicendo sinceramente come la penso, tutto lì già. Ehi, guarda adesso, c'è il ecco. Così la presto molto ma molto di più. E sono convinto che la presto di più anche dal mio prefetto. Dopo se lo fai sentire anche a lui, con la versione lì, e vedrai che anche lui chiederà così. Marco è sparito anche lui. Siamo rimasti noi due oggi anche al momento. Ehi, ha detto che andava a cucinare Marco. Questo qua è il Galaxy Saturn Echo col microfono normale. A me piace moltissimo perché il Galaxy ha una bella modulazione. Non comincia a piacermi molto, permesso che è sempre chiara la modulazione, però a me non mi piace questa effervescenza che arriva nella voce. Ma non mi piace, mi dà la sensazione di sentirsi da lontano, ecco. Con la sensazione di essere. Ah, ripeto, vai fortissimo, non ci sono dubbi. Una pulizina al Galaxy e c'è il ripreso. Mi sarà stato qualche falso contatto magari, che alle volte succede, sai, essendo uno a radio ormai vecchia tra virgolette, no? Se possono anche disaldare qualche piccolo contatto, magari spostando lo stesso, e come lo muovi, se riprende, forse è possibile. Meglio una soldatina, è una controllatina saldatura per saldatura, e poi vedrai che ti renderai conto che trovi qualche saldatura che è calda, ma non molto. Diciamo, una saldatura caldo-fredda. Come te la fai lì? Calda calda e calda fredda. Oh, sono rientrato. Gianni, abbiamo ripreso a funzionare il Galaxy. Sì, non lo so. Così, cosa hai di pulito? Tutto l'ho pulito tutto dentro, prima con l'aria e poi con lo spray per contatti, ma non ci speravo, non ci speravo. Ho pulito tutta la parte del microfonica, eccetera, eccetera. Ho passato l'aria, poi lo spray per contatti, l'ho richiuso e si è ripreso. Ah. Così. E magari anche qualche cosa è perduta che c'era, non lo so, perché era anche un po' fermo, sono stato un po' di tempo che non lo usavo, gli altri per farli girare, quindi stavo usando molto il bagno, e magari essendo fermo è andato in perdita qualche condensatore. È meglio così, dai, fallo girare per quello. Girando sta, questo qui è il microfono originale, ti piace? Sì, sì. E cos'è con l'eco suo, senza microfono amplificato? Va bene, va bene. Cavagana. Tante volte mettere gli amplificati magari lo rovini. Perché anche Vittorio me l'aveva detto che mettendoli gli amplificati li rovini il modulatore. No, si è già amplificato di suo, non è che deve aggiungere un altro amplificato, no? È come se lo mettono amplificato qua, capito già. Sì, perché è doppia amplificazione, normale. Ma tu quel microfono che c'hai, quello di me sa che era quello che mi ha fatto l'Adriano, da Marina, sì. Quello lì c'ha doppio modulatore, mi pare, che aveva messo Adriano. Poi l'ha passato a Natalino, poi da Natalino a te, così. No, non c'è doppio, è modificato, non so cosa gli ha messo dentro, ma non è doppio modulatore già, assolutamente, perché l'ho aperto. E se c'è modifiche, un Adesso non mi ricordo, già ti faccio la foto quando, tanto me lo porterò qua. Senta, la Marina esce un bel più forte di te, già una volta, le donne in campo sono potentissime. Sì, io. Se te ne visto, ripeto, non lo senti. Lo sper per contatto non li ha fatti, l'ho messo il CRC e l'ha sboccato. Sì, ma ci vuole il CRC, sì, in realtà lì, lo so, sono tecnico, ma però... Ma però non si dice, si dice però, hai capito, me lo becca. Io lo dico ma però, capito mia me? Può cuomare. Va bene. Capito. Franco, ci sei? E comunque vabbè, per il momento mi uso l'altro, dove sto qua, adesso non ho voglia di aprirlo, domani ho qualcosa da fare, dai. Ma è voglia è un conto, però mi faccio un po' di spray, via, no, ci vuole aprirlo, 5 minuti, sono 4 minuti. E non ci vuole, già, non lo faccio domani, dai, questo è più, questo non è fa, questo è pulito pulito. Giulio, avanti per i saluti a Natalia. Ehi, hey, ci siamo salutati poc'anzi, c'era anche poc'anzi l'altro io. Tu è che ti hai allontanato. Per cui, già, già ci siamo sentiti. Comunque lo saluto di nuovo quando sta niente, ma che... così è, già, non... Alle volte, tanto che cazzo, può essere buono, può essere bello, ma altre volte magari può anche dare fastidio. Però, dico, se è un buono può essere cazzo, ad esempio, io mi ricordo che quello di Luca, quel punto di Luca, non era stato modificato il baracchino, era stato modificato ben 24 che ha. Io mi ricordo che era quello, Luca, confermi? Sì, non è un brutto, è un Typhoon, Lafayette Typhoon. Sì, è uguale, non cambia niente, tra quello, tra il Galaxy 2, il brutto, il Typhoon, eccetera, sono tutti uguali, tutti come componentistica, per cui cambia il modo, il mobile, cambia la marca, però sono tutti uguali, per cui sì, sì, è va bene. E appunto, io mi ricordo che era stata fatta una modifica nel 24, c'è una resistenza o due resistenze nel 24 che si deve cortocircuitare, cioè praticamente eliminare la resistenza, che poi non è detto che la devi eliminare completamente, basta fare il ponte da contatto a contatto e aumenta di molto la modulazione del microfono. Io mi ricordo che è così, per cui vabbè, mi piace moltissimo, devo dire una delle modulazioni più belle in assoluto che abbia mai sentito in 48 anni, non in una lingua, in 48 anni. Dai, Luca. Sì, sì, sì, confermo quello che hai detto. Al 100%, Giulio. E io quattro l'avevo modificato io. Più 4. Però io non ho mai fatto la musica, non ho utilizzato normale, non mi è mai interessato. Però sto benissimo che facendo quella piccola musica, c'è un ponticello in una resistenza che c'è, altri due resistenze che sono affiancate l'uno all'altro, aumenta di molto, aumenta, però mi si è considerato che uscivo bene lo stesso, normale, allora io non ho mai fatto quella musica. Però l'ha modificata Adriano. Ah, che l'ha trovata io, da Adriano. L'avevo fatta io quella modifica, infatti attiramente quando attaccavo e staccavo. Che vuole? Quella l'ho fatta io quella modifica, con un pezzo di filo. No, dentro qua, c'è una casa di Maria, dentro c'è una, io la chiamo lenticchia verde, che fa la ponte. Poi vabbè, ho tutto, gli ho cambiato anche il PTT perché mi stava rotto. E gli ho rifatto tutte le saldature perché le saldature erano ben grosse, erano. Diciamolo, un po' sistemato, dai. Io gli avevo fatto solo quella modifica della resistenza e basta. Se tu non ti sei un po' un ponte, lì, fatto da me. E arrivata lì, e ho chiesto una giovane di 71, guarda che questo era un visto che anche tu hai fatto 20 anni fa, eppure me la ricordo tranquillamente come appunto hai fatto. Però, ripeto, io lo so, anzi, da qualche parte ho anche la fotografia del piccolo contatto dove l'ha fatto, per cui adesso non so dove l'ho cacciata, però c'ero a qualche parte c'ero, o perlomeno c'ero nel computer salvato, perché l'avevo presa dal computer, io la modifica l'avevo presa. Va bene. Ok, se prendi lo vedi ancora l'altra di qua. Ma basta che apro il mio, perché ce l'ho io. In campagna, quello lì. E c'è la modifica, però io l'avevo tolta perché non andava bene in un apparecchio, non mi ricordo quale. Ok. Vabbè, dai. Quello che mi è dispiaciuto è che io non ho mai più trovato il circuitino che avevo per poter fare il microfono di legno, come avevo fatto tantissimi anni fa. Non ho più fissato perché l'ho piccato quel circuito, avevo il circuito messo da parte con tutti i componenti eccetera, non l'ho più trovato. Sarà conservato mi da qualche parte, ma ho cercato un po' dappertutto, non ho trovato assolutamente quel costruito. Tra tante cose che ho, quello che mi serviva di più, perché volevo rifarmi così, tanto per passare tempo, rifarmi un microfono autocostruito come avevo prima, non ho mai più trovato il circuito, cioè il circuito elettrico, che ce l'avevo, ho messo da parte, tutto ben fatto, eccetera, eccetera. Non l'ho trovato, vai due a ciappa, ma comunque, non fa niente. Pazienza, vuol dire faremo altre cose. Avanti Gianni. Aspetta già, interrogativo Giulio. Dimmi, lo sai. Ma cos'era? Un circuito SDE quello, no? Che avevi fatto, quello piccolino, tipo Turner. Sì, avevo fatto una carcassa di legno, esattamente la stessa imitazione del Turner più 3, uguale misure, uguale modello, tutto quanto, non c'era differenza, solo che era fatto a legno, che poi la carcassa l'ultima che ne avevo già fatto, che dovevo fare, l'ho regalata a quello del Portotorre, che sono Gianluca, mi sembra, Gianluca del Portotorre, che l'ho regalata. La carcassa di legno, senza circuito però, perché io stavo sempre cercando il circuito elettrico che ce l'avevo messo da parte e non l'ho mai più trovato. Comunque era un circuito che l'avevo copiato dal microfono SDE, vecchissimo SDE di una volta, era stato copiato da quello, per cui non fa niente, è andata così. Vai Gianni. Intanto adesso non c'è più nemmeno lo scheletro per metterci il circuito qui. Se no magari da internet potevi scaricarmelo. Non so se c'è, però lo scheletro, lo scheletro non c'è il problema, lo scheletro io lo faccio quando voglio, o già, perché ho l'attrezzatura per farlo, per cui non è quello il problema. Anzi, ma avevo messo da parte anche un pezzo di legno bello pesante, bello, in modo che non si spostasse quando, perché prima quello che avevo fatto era il Douglas, era un legno di Douglas, però era leggero come, cioè uno, ne avevo fatto tante, ne avevo fatto, e poi ho regalato, un po' a uno, un po' all'altro. Però quello che avevo fatto è il circuito elettrico, come fa a sapere dopo? Addirittura adesso non so se ce l'ho portato un falegname mia o mettere da qualche parte, che poi magari in mezzo a tante cose è finito nella bondenza, non lo so, oppure ce l'avevo a casa, non lo so. Non so che c'è caso, si era un posto che ne basso e non l'ho più trovato. E mi dispiace perché adesso ho fatto un live per questi giorni, mi sarei potuto divertire per fare queste cosette, almeno per preparare il circuitino, poi quando passa tutto il discorso coronavirus, allora sarei andato a fare le mie, me l'avrei fatto, quindi la carcassa, dai, tutto, vabbè, pazienza. Luca, ci sì. Ah, perché macchinari. Che lo chiamavamo? Microfono di tavola. Io me lo ricordo che il circuito era di un SBE, perché a suo tempo ce l'avevo anch'io l'SBE, capito? Ecco perché mi ricordo che era un circuito SBE quello. Invece il microfono era la riproduzione di un Turner più 3. Esatto, ma questo così, infatti era così, io l'avevo copiato da un SBE, l'avevo copiato. E dunque piano piano con la lente per vedere tutti i componenti, avevo fatto, mi sono abitato la sera, mi sono abitato per copiare tutto il circuitino. E poi piano piano ho leggere tutti i valori dei componenti, delle resistenze, il transistor, mi ricordo forse era BC127, mi stesso non mi ricordo bene, ma mi sembra che era quello, il transistor. E addirittura avevo la lista del materiale attaccata alla cassa in bottega. L'avevo scritta lì sulla fiancata della scaffalatura dove c'erano tutte le prese. Però col tempo, sai, in falegnameria e polvere oggi e polvere domani, si è cancellato tutto, anche da lì, anche per quello lì sono stato sfortunato, non si legge più nulla, qualche cosina si legge, ma non più di tanto. Se puoi immaginare, lo sai. Me lo posso immaginare, poi va il punto che sta penso, perché il circuito dell'SBE è molto piccolo, era uguale l'avevi fatto. A Pentarezzo da Vigliata fai sul circuito. Allora, ma guarda che ce l'ha ancora ultimo, la piazza del rame, o il coso, come si chiama? Il liquido per poter fare il circuito, perché tu è la penna avevo, ecco, quella non l'ho più trovata, anche quella ho perso. Avevo la matita, no, tu non facevi altro che disegnare sulla cosa del rame, con la matita adatta, la mettevi in ammollo dentro questa specie di liquido e dopo un po', dove c'era la matita, rimaneva il circuito. Mentre invece dove non c'era la matita, il rame ce lo mangiamo a questo liquido, ce lo mangiamo. Poi lo pulivo tutto quanto, poi con una punta da un millimetro lo bucavo un po' tutto dappertutto, dove c'era la pizza che era stata fatta, e lì collegavo i componenti. Ecco come facevo. Vai ancora, Antonio. Scappa, io già non so come ci fa. Quello è un acido che mangia tutto il rame, dove non c'è la matita se lo mangia e si lascia la pizza che avevi fatto tu con la matita, già lo so. Io l'avevo anche visto quel circuito, ecco perché l'ho riconosciuto. Era un circuito SBE, l'hai posto una penso a Faghisa perché era piccolino, microscopico era come circuito e non veniva tanto bene a farlo. Non veniva tanto bene perché era piccolino, proprio con molto compatto. Però sai, allora avevo parecchi anni meno di oggi e per cui mi ero impegnato a fondo e ero riuscito a individuare tutto, oltre ai componenti anche la pista, la compatta identica come era quella originale. Era una piattina, era stata lunga 3 cm, 3x2, una cosa del genere, più o meno, adesso non la ricordo nemmeno bene, ma all'incirca era così, come misura, no? E lì c'era tutta la componentistica che andava bene, che funzionava anche una maraviglia. Io me lo ricordo, ce l'avevo io affinato al Lindo Isti 294, se ricordo bene che era quella, dalla stazione base, con tanto di coso, di orologio, eccetera. Ma era una meraviglia, usciva gatta, che era una bomba, ma comunque facete. Poi l'avevo dato in cambio di una tenda da campeggio, l'avevo dato, se puoi immaginare, l'avevo dato a un mio parente, l'avevo dato a lui, l'avevo dato, e mi aveva dato una tenda da campeggio, mi aveva dato, che poi io una tenda l'ho usata per anni, non è che... Poi l'ho prestata a lui stesso e me l'ha distrutta, perché un giorno la piazzata che c'era un giorno di vento, mi ha tutta la strada, vabbè, pazienza. Avanti gli anni scusate che tempo con nonna Sagina. Ma io mi ricordavo che tu non l'avevi data Emanuele a Pozio Pilato, forse ricordo male, di questi microfoni che ho autocostruito. Gli avevo dato una carcassa a Pozio Pilato perché lui si è preso, si aveva comprato un microfono, quelli tipo microfoni che da precantare, no? E l'aveva applicato lì su questa base, l'aveva applicato, quello sì, ma non nel circuito, assolutamente no. Lui si aveva comprato uno di quei microfoni, da quei senegalesi o chi erano, non lo so. Si aveva comprato uno di quei microfoni e questa base che in realtà era una base che io avevo costruito e su nello snodo avevo attaccato una ventolina, avevo attaccato così per giocare, perché era una base un po' più larga eccetera, e io un giorno l'ho data a lui e lui poi l'ha utilizzata per attaccarci il microfono da canto. Ah ecco, l'ho fatto diventare da canto. Oh cabretto, andava bene. Marco, ci sei? Scusate, buonasera, sono io, vicino. C'è per caso Luca? Sono qua, ricevimi tutto. Luca, canale 12, io chiedo informazioni. Via, vai. Capito Gianni, però lui poi lo usava per modulare questo microfono accanto, aveva fatto tutto il collegamento che era necessario fare e lo usava per modulare. Io ne ho 3 o 4 di quei microfoni, anzi io ne ho addirittura 2 che costano roba di 700-800 euro, microfono accanto, professionale, buoni, ma se ne aveva dati mio fratello, me l'aveva dato, perché lui ce li ha tanti, quando va a cantare, quando andava anche, per cui io ce li ho conservati, ma non me ne frega niente a me. Una volta l'ho provato nel karaoke che ho a casa, io ho una radio che fa la karaoke qua, e posso attaccare il microfono e ci posso cantare, ma io non ci provo a cantare, perché se no ti udi, perché sono solato. Vai, Natali. È la stessa cosa ti dico io. Oh, yeah. Vabbè. E una volta ne avevo fatto uno io con il flessibile da lavandino. Mi ricordo, Natali, cosa fosse se va ancora qualcuna? Per protezione della capsula, in quel microfono che avevo fatto, avevo messo tu immaginati un filtrino di macchina di coso, di caffettiera, sai, la caffettiera c'era, cioè il filtrino, era una caffettiera, mi sembra due tazzine, una cosa del genere. Io avevo tolto il filtrino e l'avevo messo davanti perché è tutto traforato, no, bello, quando era messo piazzato non sembrava nemmeno un filtrino di caffettiera. E quello era la protezione della cazzo, insomma, la matarina. Me lo ricordo bene come se fosse utile. Era bello, era bello. Poi era tutto ruggirato, bello, fatto a struscio come si deve, dai. E fatto con cura. E poi l'ha aiutato a Antonino, un parente, un altro, e poi lui, quel paletto lì, sai il malattia a sinistra, quel malattia a sinistra, in mano a uno dei ref, è praticamente al ref, quello, come si chiama? Non me lo ricordo, quello che aveva, che iniziava il cognome con R, perché ref erano una serie di succhi, no? Lui aveva dato poi a quello lì, sia il barattino come il coppio. Vai Gianni. Uno te lo dovevi lasciare Giulio, come ricordo, dai. Uno te lo dovevi lasciare, almeno il primo che avevi fatto, io me l'avrei lasciato anche come sopravvivente. Lo so già, se te lo sto dicendo che io ho un pezzo di padouk, il padouk è un legno rosso, molto rosso, rosso come dire, rosso ciliegio, quindi proprio un colore così, però poi col tempo si ossida e diventa un po' più scuro come colore. E siccome è un legno durissimo quello, è anche molto pesante, e in quel pezzo di padouk qui io me l'avevo messo da parte, la mettevo sempre, per poter fare appunto un altro microfono, che poi non l'ho mai fatto. Però anche perché nel frattempo ne avevo sempre uno di scorta, che era quello di Douglas, Douglas è un legno, è un pino, è un legno leggero, anche se è molto buono per fare le persiane, per fare le finestre, ad esempio, però era un legno leggero. E l'avevo regalato, saranno un, 3-4 anni fa, a Gianluca di Porto Torres, che una domenica mattina l'avevo promesso e gli ho detto vieni che sono all'inizio della piazzetta in questo momento, vieni e ce lo do. È venuto da Porto Torres e ce l'ho regalato, tutto lì. La promessa che lui ci avrebbe fatto un circuitino e poi invece non l'ha mai fatto e poi non l'ho più sentito nemmeno Gianluca. Ma era bello, mi sembrava quello che avevo fatto io, sembrava un Fadelsa, sembrava. L'avevo fatto con un lezzibile, cavolo, come guarnizioni ci avevo messo quelli delle bombole. Avanti Brecchi. Sì, stavo ascoltando Roberto da questa parte, ciao Giulio, un Natalino, Gianni, e per un attimo ho sentito Eugenio. Sei tutto a fischi, Roberto, buongiorno, buonasera. Aspetta che cambio. Adesso? Adesso? Sempre a fischi. Aspetta adesso, c'è un'altra cosa, questo è il capo. Sì, sta a fischi, Roberto. Davvero? Davvero? Ma però? No, si dice però, ma però non si dice. Oh, adesso? Adesso come va? Adesso va bene. Cavolo, non era infilato bene, dai. Tutto positivo, non ci sono problemi, dai. Vabbè. Che noia però così, dai, cavolo. Allora, stavanti a socio da fare la spesa a piedi, lì, via Castelletta. Io ho cominciato di prendere roba leggera. Cavolo, mi sono salito con un borsone pieno. Ragazzi, una vazio, per carità. Qua c'ho anche una pezza, allucinante. Ma quella è la vecchiaia, Luca. La vecchiaia carrona, da ossare. Dovevi fartene dividere due borse. Senza Maria, via, per carità. Vabbè, io ho preso un po' di arance in più, perché a me mi piace un bel, io le mangio un bel. Stanotte c'ho carne e patate, buona vita. Cos'hai? Carne e patate. Ho capito, caffè e patate. Mazza, così, ecco. Lo spettatino, dai. Ma quello li fanno bombardare. Io bombardo. Sì, lui lo sa. Ma io, guardi, me ne sappai giù, come lo saranno, mi dico, come stanno lì in mezzo, perché la parità a te. Ah, giù, quello fa fare bombettoni, a bombettoni al viro, agli svegli. E micidia. Per tornare, ho già. E allora? Micidiale, ui, si mangia il cazzo fa patate, però me la deve fare così. E fai con calciuffi? Fatti di più. Fai con calciuffi, non va bene lo stesso. Cavolo. Io l'altro giorno ho fatto la pasta con calciuffi, che mi piace molto. Anche a me i calciuffi piacciono tantissimo, anche gli asparagi. E invece lo zio di mia moglie diceva che i carciofi non dovevamo mangiarli, che facevano male al corpo, che fanno aria, che fanno male, mal di pancia. Sai cosa dicevano gli anziani oggi? Tutto lo che si ha a bocca, lungo in bocca, poi tutto il resto erano queste vie. Trovo di scuso e dare il corpo. Avanti Natale. Ma non è tanto adesso. Aspetta, forse c'era qualcuno che voleva vedere. Marco, tu sei. Però c'era un segnale fortissimo, normalmente ci sembrerebbe il suo. Marco, sei tu. Chi c'è ancora? Che rimane? Eugenio ancora. Sta parlando Marco e tu l'hai sovramodulato. Come l'ho sovramodulato? Sono chiamato e non ha risposto. Ci sei Marco? Sì, ci sono ma sono in ascolto. Ah, ok, va bene. No, perché ho visto un attimino la portante, ho detto questo sicuramente è Marco. Perché in ascolto Marco? Entra io. Ma io sto ruminando già, lo sai che ho la mangiata lenta, no? Ah, non è ancora finito, vabbè, come l'ho detto, chiedo bene. Avanti, tata lì. Dai, un saluto a tutti, con la ragazza zio, purtroppo devo smettere, ci sentiamo alle prossime, va. Perché purtroppo ti hanno rotto? No, devo cucinare, devo fare, va. Devo fare altra cosa. Va bene, là. Ok, buon correttivo e buona carica quando la fai, avanti. Ok, ciao Natalia, allora dai, ci sentiamo alle prossime. Grazie per la chiacchieratina. Avanti, Robert. Ciao Natalia, alle prossime, buon tutto, ciao ciao. Giulio. Dimmi, Robert. Ho ascoltato di sfuggita il discorso dei microfoni. Quanti ne avevi fatto di quei microfoni? Di questi ne avevo fatto. E non solamente di legno, ma addirittura compravo delle scatoline in alluminio all'incirca 6 cm, 6-7 cm per le alte 4, per quelle del tonno. Che so io 5, una cosa del genere, no? E ci rimettevo anche lì dentro, e si usava direttamente il microfono originale della radio, però in questa scatoletta c'era tutto il circuitino e ho cercato il microfono originale. Io l'avevo visto il tuo cavo, era spettacolare, il Tanner era brutto, infatti ho detto ma che cavo ha fatto, il passaggio dei fili poi per fare il canale, per passare il filo dove c'è la capsula, un lavoro spettacolare. Dentro c'era un tubicino in ottone, un tubicino, quanto sarà stato un tubicino a 7 mm, cioè un metro di diametro, all'interno sarà stato 5 mm, una cosa del genere, e tanto sufficiente per passare il fili per arrivare alla capsula. La capsula era una capsula da 600 ohm, la compravo sempre da Pugiaro, ed era di 32 mm mi sembra, una cosa del genere, di diametro, un facsimile 32-35 mm, non so di preciso, non lo ricordo più. Andava benissimo, e come a protezione della capsula prendevo dei filtrini delle caffettiere da due tazzine, no? Ne toglievo il filtrino, ne toglievo magari caffettiere vecchie, allora il compagno c'era Albano in via Cattedreta, quello del Stato Vecchio, non so se tu l'hai mai conosciuto, e io andavo lì, i caffettieri tenevano a bezzeffe, anche perché era un mio cliente, ci conoscevamo molto bene, eravamo amici addirittura con Renzo, adesso sarebbe il genio di Albano. E dunque prendevo questi filtrini, e li utilizzavo a protezione della capsula, ma era una protezione straordinaria. No, era bellissimo, poi era il tasto, c'aveva il tasto, guarda, infatti ti ho sempre cercato di arruffiarmi per farmelo dare, ma poi non ne avevi più. C'avevo sempre quell'affare che mi hai regalato tu, quel mobiletto per mettere il baracchino, l'alimentatore dietro con la griglietta e il legno, bellissimo. Non so che legno era, ricordami tu che legno era, c'era il coso per l'alimentatore dentro, per l'altoparlante, bello, ce l'ho ancora conservato. Boh, figurati, Roberto, non ricordo nemmeno che mobiletto era, pensa un po'. Ne avevo fatto tante cose, avevo fatto un baracchino abbinati con la radio, con l'autoradio, dentro ci mettevo l'alimentatore, tutto quanto, con tanto di sioncino, per vedere quando era acceso, sia luminoso, no? Con il suo interruttore, quando accendevi tutto, c'era poi l'altoparlante dell'autoradio, poteva essere di fianco, poteva essere anche frontale, ne avevo fatto, e poi era, anziché essere una facciata dritta, era in pendente, in cadenza, no, cadenzato, tipo che so io, tipo il cobra da base, quello così. Insomma, ne avevo fatto diversi, ma poi tutti li avevo dati, per cui no, li ho fatto, diciamo, dai. No, c'era ancora il grande, per come hai fatto a me, c'era l'interruttore, la spia, il cavetto, come si chiama? L'innesto per attaccare l'alimentatore esterno, cioè quello poteva mettere l'alimentatore interno e più, probabilmente si poteva usare anche come autoradio per mettere l'autoradio, bello, bello grande, più grande di una volta e mezzo un 4,40, un po' più alto, c'ha le ferriture fatte tipo griglietta. Per cosa ci mettevo anche delle prese, delle boccole esterne, ci mettevo per poter appunto mettere un altro alimentatore esternamente, insomma l'ho fatto di diverse maniere, non è che... E poi addirittura ne avevo fatto anche con l'ampelometro, con il voltometro, tutto quanto, e veniva, che era reservissima. Avevamo 40 anni in meno, gli artisti, dai, maestri di falegname, ce ne sono pochi, dai. Ok, chi c'è ancora? Avanti Gianni, e poi non so se c'è Eugenio, Marco dice che è in Corrix, avanti Gianni. Signora, io l'ho visto il microfono di Giulio, mi è piaciuto anche a me, infatti lo volevo dire se me ne faceva uno, poi mi ha anticipato e ha detto questi li faccio solo per me e non li do a nessuno. Giulio, interrogativo, riprendiamo. Che si sa, era proprio lucidato come si lucidano i mobili. Come ti ho fatto un mobiletto a te per il baracchino e per lo stereo, eccetera? Fatto con la stessa procedura, con tanto di fondo, con tanto di colore, tutto quanto, così fatta tutto, fatta alla grande, liscio, molto bello, è anche abbastanza lucido, semi lucido, là. Non pagamo. Peccato che uno non te l'è tenuto, uno me l'ha tenuto io, almeno per averlo come ricordo, là. Dopo tutta la fatica uno l'ha tenuto, e poi gli altri magari ne avrei anche dati, ma uno almeno me l'ha tenuto come ricordo. Pure io li ho visti. Io l'ho visto finito lo stesso, era bellissimo. Cavolo, perfetto era, beh, uno c'è i macchinari adatti, poi bisogna saperlo fare, non è... Non è buccia di gioca, no? Ma poi anche qualcosa del caffè, quella è una bella storia. Comunque Giulio almeno l'ho conosciuto, era amico di mio padre. A me mi aveva regalato, quando ero ragazzino, una macchina da scrivere di quelle Remington, ce l'aveva buttata lì in mezzo al ferro vecchio. Ma in realtà questa, beh, piglia di là, portatela via. Ah, Robe, ma sai che i fianchetti di Roy sono costretti Giulio a me? Infatti già si vede, un lavoro bellissimo. Ah, ho fatto un capolavoro, allucinante. Era di Frasichi, si vedeva di prima. Ma Frasichi... Si è appentato meglio a costretti lui, sì, proprio la radio era veramente, questa radio era un relitto, tutta pulita, e Claudio invece mi sa, se non mi ricordo male, Claudio mi sa, mi aveva beneficiato il coperchio, non mi ricordo, sono sincero, ma mi sa di sì, comunque è uscita fiammata, tutta pulita bene, sgrassata bene, c'è sempre, vabbè, sì, vetrina. Certo, non è funzionante, non è vetrina, il microfono adesso è staccato, però quella lì è perfetta, nuova, sembra essere da negozio, è perfetta, non ha nessun graffio, nessun segno di usura, cioè il microfono, ma non è dato anche il microfono suo originale. Sì, avanti Gianni. Quella Luca poi funziona a 110, gli ho messo il trasformatore. Sì, no, beh, mi ricordo andava anche a 110. E quella è originale americana, tensione americana a 110, avevo preso la GBC il trasformatore che è un riduttore di tensione, la 220 l'ho portata a 110 e dietro, che non si vede, dietro ci sono le mensoline e dietro gliel'ho messo di lì. Meglio così, da. Gianni ci sei? Ma cosa Eugenio che fine ha fatto? Chi è rimasto qua? Oltre a te Luca e Giulio e Gianni, c'è qualche domanda? Eugenio si era passato, ma non so se è rimasto. Eugenio sì. No, è andato a governare la nave, è andato. Ma ti deve fare la mano, deve fare della nave. Non fare la mano, poi stava. Vabbè, a te tempi, vabbè. Eravamo molto più giovani. Il momento occappa proprio veramente, e poi alla fine sono stato costretto, tu mi dirai, ma alla fine sono stato costretto un giorno, vabbè, siccome era diventato frequentato il mio locale, avevo fatto un cartello, mi dispiace per gli amici, ma durante le ore di lavoro non voglio vedere nessuno dei miei amici, non mai più di uno, tutti pariti, li ho fatti sparire tutti, cazzo, di venire e dei bastoni, di venire a rompere le scatole, alla fine no, no, non va bene così, allora ho preso la decisione e ho posto rimedio. Sicuramente, così era mio cognato, il nipote di quello vicino a te, del meccanico, ci aveva lui pescatore, tutti gli amici pescatori, e ci aveva inventato il ritrovo, tipo una, un club. Mi sono andato e tu, signore, io qua sto lavorando, ma ne avevano 10 per me, andiamo a lavorare a Giulio, andiamo a lavorare a Giulio. Tutti si trovavano lì, poi il sabato, che molti non lavoravano, andavano da lui, ma lui il sabato lavora. Alla fine ha detto, beh, io qua lavoro, non posso ammattare il cervello insieme a voi. Ma decine di persone ci andavano, è diventato un ritrovo. Giulio, ti ricordi mai avevi dato anche un supporto per il TV, per la TV, per tenerla più alta in legno, ce l'ho sempre? Quanti anni, sono passati? Tante cose, prima facevo anche i mobiletti ad angolo per la televisione, c'erano quelle persone che anziché utilizzare il tavolino per la televisione volevano una mensola ad angolo e col cassettino, dentro il cassettino ci mettevano il coso, ci mettevano o l'elenco telefonico oppure il telecomando, insomma queste cose così. E mi ha fatto a bezzeffe, ma era un periodo che sembrava fatto apposta, bastava che uno vedesse una cosa che subito lo voleva anche lui per dire no, o lei a seconda della persona che veniva. Era diventata una cosa, anche che se il tavolino volevano sempre, no, dice perché il tavolino dice invece sotto il medio è spazioso, con la messo all'angolo, intanto rimane sempre lì fermo, aveva ragione, poi l'avevo fatto girevole, il piano girevole che girava il televisore, se tu si spostavi si girava il televisore insieme, era un piano che girava, e uno roteava, capito? Vabbè, ma già sai lavorare a Puglia, già ce l'hai la reputazione di ottimo maestro di legno. Purtroppo il falegname è uno di quei mestieri che stanno scomparendo, se non sono scomparsi del tutto. Io ho due, vabbè, mio zio ha chiuso, già l'ha conosciuto, c'è il figlio che sta continuando a lavorare, forse con la mia Maddalena, e l'altro figlio in coso, vicino, ma c'è un vecchio mercato dove c'è Santa Maria, come si chiama, quella specie di stabile che c'è, tutto, che avrebbe preso fuoco. Però falegnami e macerata sta diventando, così come carrozzieri, lattonieri, ormai sono tutti assemblatori, come dice mio padre, lattonieri, quelli che lavorano alla miela, che costruiscono, no? Infatti mio padre diceva sempre, noi siamo costruttori, la mia generazione, adesso sono assemblatori. Lo so, il mestiere di prima era più artigianale, vabbè, oggi no, oggi se si schiaccia un portello perché ha avuto magari un incidente con la macchina, prima te lo rasettavano per dire, te lo mettevano, adesso lo facevano perfetto, oggi no, da Pasino, poi il rubo, tutto sommato oggi magari conviene anche di più. Però non so fino a che punto convenga al cliente e magari conviene più all'operaio che fa il lavoro, probabilmente così, non lo so. Io ad esempio seguo molto canale 59 e lì aspetta come si chiama con la trasmissione trend no, beh, vabbè, comunque canale 59 prendono certe macchine tutte arrugginite, tutte vecchie, ma veramente brutte che nemmeno per un vecchio sarebbero da presentare, beh, se li fanno fiammanti, nuove fiammanti, si fanno delle modifiche, si cambiano il motore, se il motore non ci sta, si modificano la carrozzeria, insomma, dei lavori straordinari, veramente, guarda. Adesso che lì trovano tutto, se ci manca se ci vuole un pezzo che non si trova in una maniera più assoluta in tutta l'America o in tutta l'Inghilterra, per dire, c'è sempre qualche artigiano che ce lo costruisce, sono cose straordinarie, lavori straordinari. Riguardo anche io quel programma, mi piacciono molto, acquistano macchine che pare di per i ricci e le fanno ritornare, le fanno rivivere, dai, le prendono tutte sporche, tutte queste, ma storia. Io dico che vabbè, le rivendono a un prezzo superiore, però ne vale la pena a voi. A fare minacce a queste macchine, come spesa, le dico, come spesa c'è, prendono marmite nuove, cerchi, li fanno verniciare, insomma, la li fanno nuovi. Sì, certo, e poi guardo anche molto i canali YouTube al computer, e anche lì fanno dei restauri straordinari, belli, ma veramente belli, roba tutta arrugginita, tutta da buttare, che nemmeno il ferro vecchio racconta, proprio da dentro il mondettaio, ma tu devi vedere come metto un insetto, tutto quello che c'è, qualsiasi cosa, dal computer alla radio, al trapano, al compressore, ai motorini, alle biciclette, a qualsiasi cosa, Gianni, qualsiasi cosa buttata, rusinita da anni e anni, buttata qui per mezzo al mondiaio, loro la raccolgono e te la portano in vita veramente, ma veramente come nuova, tu immaginati una cosa che ormai la compri nuova, porti esce. E questo fa capire che tutto si può recuperare, che non c'è nulla da buttare via. Si può recuperare tutto. Sì, beh certo, e tu mi accendi il computer e scrivi YouTube, per dire, lo so, elettronica, YouTube che so io, qualsiasi cosa che vuoi sapere, trapani elettrici, per dire, no, tu puoi dire, c'è una spinta di cose che vedi come che vanno ristrutturate, ma in una maniera, guarda, che solo vedendo e toccando, sembra che se mi tocco questa cosa, con le mani mi viene il colera. Invece tu devi vedere che lavori che fanno, sono veramente bravi. Probabilmente è un lavoro anche quello per loro, non lo so. Certo che sì, un lavoro sì, poi le vendono alle aste e le vendono tre volte di più e hanno un guadagno allucinante. Sì, infatti è sicuramente un lavoro, non è solamente hobbismo, è sicuramente un lavoro. Non lo so, ma ti sto dicendo, roba vecchia, tutta inchiorata, tutta roba finita, inchiorata. Usano dei prodotti che la ruggine la fanno sparire, insomma lo puliscono bene con delle spazzole rotanti e tutte queste cose qua. Poi magari la carcassa la verniciano anche, le danno il fondo, se ci vuole toccata la truccano. Sto dicendo che è una bellezza, vedete, lavorare questa gente è una bellezza. Io lo guardo quasi tutti i giorni che sono a casa e guardo molto YouTube, dopo aver letto il giornale, per dire, sia il giornale quotidiano di Sassa, io pure il Corriere dello Sport, tutto Sport, queste cose, poi passo lì, passo e ci sono delle ore guardando questo, come questa gente fa la ristrutturazione di queste cose qua, trappani tutti inchiodati, tutti vecchi, tutti sporchi, ma pochi rugginiti, ma la ruggine da millimetri, no, una ruggine appena sopra, ruggine da millimetri, tu devi vedere già come lo fanno. Ah, poi vabbè, noi ne abbiamo uno, poi frequenta che fa queste cose e ha le mani d'oro lo stesso, tra ponte e macchine le restaura in una maniera maniacale e brutta. Sì, no, ma a dimostrazione che tutto si può mettere a posto. Da poco avevo visto questo computer buttato in una campagna, questo buttato, tutto aperto, tutto scombussolato, come immaginare un computer portante, l'ha preso, l'ha ristrutturato e l'ha fatto diventare nuovo proprio praticamente nuovo di fabbrica. Gente che si appena a fare certe cose, un altro dice invece un tutorial che sono molto direttamente che proprio a fare, a stare a prendere tempo, eccetera, come fare la candela. Invece c'è chi invece si appena, chi piace fare tutto queste cose, e le fa come dice. Sì, beh certo, appunto è quello che ti sto dicendo. Sono lavori che non convengono, fare non convengono, assolutamente. Però c'è quella persona, o che lo faccia per lui, o che lo faccia perché è un suo lavoro, o perché glielo chiedono, perché magari fanno le riprese televisive, poi le mettono come programmi, non lo so. Sono solo queste gente che fa queste restauri, ma sono veramente meravigliosi, guarda, veramente meravigliosi. Hanno anche il guadagno perché le mettono all'atto e ci guadagnano 3-4 punti di quello che l'hanno speso loro, quindi già c'è il soccorso, è un lavoro naturalmente, è un lavoro, loro ci lavorano. Sì, sicuramente è così, ci sarà qualcuno che magari che li sponsorizza a queste persone lavorano, magari saranno stipendiate, che sono io, e poi lo sponsor prende tutti gli oggetti che vengono ristrutturati e li mette in vendita magari all'asta, con la scusa che sono pezzi molto, molto antichi e fanno i soldi, ecco, sicuramente fanno i soldi. Okay. tanto se l'è cambiato, però non lo cambia, ma senza problemi. La danno la macchina, che è difficilissima. Sì, te lo sto dicendo, perfetta, tutta originale, tutta anche modificata. Preparano macchine da corsa, preparano moto, di tutto, quelle che lo fanno, qualsiasi cosa, veramente. Vabbè, dai, già, io ti lascio, sono le 8:10, ascolto le notizie e vediamo un po' cosa dicono oggi col fatto del coronavirus e vediamo un po' le notizie che adesso per ora c'è il telegiornale Rignolina, seguo quello o anche quello nazionale, per cui sentiamo un po' cosa è successo soprattutto qua a Sassari. Ciao già, ci sentiamo, là. Grazie per la chiacchierata. Saluto Roberto che è in ascolto, ma mi sa che ha mollato, avrà avuto da fare. Alle prossime, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Natalino se c'è ancora l'ascolto, Eugenio se ci sei in ascolto, insomma a tutti qua. Saluto a tutti, io chiudo, ascolto fino all'inizio tuo già e poi chiudo, vai. Ehi, allora, ciao Giulio, buona carica, vado alla fine, ciao anche a tutti gli altri amici, faccio pure il tempo perché anche io vado a prendere il telegiornale, io ci sono subito per tutto. E di solito guardo sempre che non ce l'ho fatta alzare stamattina. Va bene, dai, saluto gli amici di cordialità e alle prossime. Ciao. Ok, ciao. Eccomi qua, e beh, spariti siete. Gianni, Natalino. Tutti spariti siete, gabbè. Credo che abbiano chiuso, Luca. Minchia, sta già sarrando, Anne, all'ultimo codessi. Strano. Senti che ore, 8, 10, così. Vabbè. Io sono qua con lo smartphone, ho sentito dei saluti, sicuramente no, hanno chiuso. Sì, adesso è ora del telegiornale, 19:53. Si andrà a cena, quindi. Vabbè, Luda, sentiamo un'altra occasione. Io ho lo stomaco un po' buriato, ho mangiato una cosa, ma non mi sembrava tanto fresca a me, vabbè. Ehi, tranquillo Marco, vai tranquillo, tanto anch'io me lo guardo dal giornale adesso. Sì, tanto dicono le solite cagate lui, mai una parola di speranza, sempre, la situazione è grave, carità. Ehi, vabbè, cambierà qualcosa, se no pazienza. Cioè, io qua accendo, se entra qualcuno, beh, se no... A due anni, Piacenza. Beh, pazienza no, cosa credono? Che siamo 6 mesi tappati in casa? O che ci suicidiamo per la disperazione? No, noi... Ma io ti parlo di un po' di anni fa, io ci stavo spesso a casa, ci può quasi niente. Perciò per me non è che... Sì, vabbè, adesso mi trovo un po' in difficoltà, perché sono totalmente abituato ad uscire. Adesso mi ritrovo con un pugno di mosche in mano, capito? Oh, Luca. No, sono rientrato un attimino a salutare, no, la telefonata. Scusate, stavo parlando Giulio, non ho avuto modo di rispondere, ma è andato via. Tutti sono andati via, Roberto, sono rimasto. Sì, è Marco, ma anche Marco, lo stesso. Vabbè, per me c'è un po' di mangiare, tra un po'. Poi sono le 8:10, 8:20, vediamo. Anche io adesso vado a preparare qualcosa da mangiare. Dai, ti saluto Luca, ciao Marco, dai, non credo che rientri dopo. Comunque tenetevi tutti salutati, volete da parte mia. Ciao ciao. Ciao Roberto, alla prossima. Ciao Roberto, buonanotte, buon tutto. Ehi, allora, dai, mi faccio un caffè, vediamo se mi si rimette a posto lo stomaco, lo stomaco. Ci sentiamo lui, dai, ciao, buona serata. Ciao.